Allora, il cadavere ancora cammina. Riprendiamo gli incontri sull'economia nel suo aspetto finanza con questo secondo ciclo che cercherà di informare, divulgare, analizzare, aprire una discussione sui temi proposti che non possono essere scollegati alla tendenza alla guerra sempre più generalizzata, in quanto ogni potenza in lotta con le altre in una struttura mondiale dove le economie sono interdipendenti, facendo parte di un unico sistema, il mercato mondiale. Torno a citare Maurizio Novelli, che è stato nostro ospite diverse volte, che scriveva nel 2020 su Milano Finanza che il sistema capitalista è morto, praticamente è morto. La questione è che si è trasformato, cioè il cadavere si è trasformato in uno zombie, che determina questo zombie la necessità per il sistema di grandi capitali per essere sostenuto, ma non può remunerare questi capitali perché altrimenti fallirebbe. I governi hanno bisogno di fare più debiti per sostenere l'economia, ma il capitale richiesto per finanziare il debito non può essere remunerato, poiché renderebbe il debito non sostenibile. Sul Financial Times del 4 novembre scorso, Rukhir Sharma, presidente di Rockefeller International, dichiara che lo sviluppo del PIL statunitense è sempre più dipendente, pesantemente dipendente, dall'indebitamento e dalla spesa del governo. Abbiamo già avuto modo di segnalare delle conseguenze di una massa enorme di capitale finanziario. Il valore dei derivati è di 2,2 milioni di miliardi di dollari, 2,2 milioni di miliardi di dollari. Completamente slegata dal prodotto interno mondiale, circa 80 mila miliardi annui. Il capitale finanziario, quando il capitalismo era ancora vivo, e che comunque non può tornare bambino, determinava la concentrazione di investimenti per l'industria, che a sua volta estraeva il plusvalore. Oggi questo capitale non ha la possibilità di valorizzarsi nella sfera della produzione, perciò è destinato a rimanere capitale fittizio e quindi, come diceva Marx, ad essere cancellato, in quanto la pratica esorcista tramite il trasferimento di valore in creazione di valore si scontra e si scontrerà con le bolle determinate dalla speculazione. Il debito pubblico degli Stati Uniti supera per la prima volta i 34 trilioni di dollari e anche il deficit di bilancio aumenta a dismisura. La situazione dell'industria degli Stati Uniti, che non è più quella del secondo dopoguerra, che vedeva la partecipazione degli USA al mercato mondiale al 50%, con la crescita del debito e la perdita di quote nel mercato mondiale, con continui e disordinati mutati equilibri geopolitici globali, compromettono il potere del dollaro. Il debito americano è fuori controllo. L'enorme indebitamento dello Stato centrale, degli Stati federati e dei singoli cittadini lega tutti quanti ad un'immensa bolla, per primi i paesi creditori, come Cina, Giappone, Corea del Sud ed Europa, anche per il fatto che il dollaro è ancora la moneta di riferimento per qualsiasi trattazione a livello mondiale. Qui vengo a quanto vi ho dato prima. Chi ha guardato attentamente la locandina dell'iniziativa di stasera e letto quella riga nera in negativo che recita centro ucron, al cambio valgono 1123 euro, solo che andranno in vigore dal 1 gennaio 2504. quale però sarà raggiungibile con una serie di cronobalzi. Così adesso capite qual è il collegamento con le banconote che vi ho dato. Attenzione però, perché in un'altra serata parleremo di come si può fare il cronobalzo, perché le utopie possono realizzarsi con il metodo dell'ucronia, ma di questi processi ne avremo modo di riparlare in quanto potrebbe essere la soluzione del debito mondiale. Basta, lascio agli esperti di approfondire gli argomenti. Allora, dopo questa premessa iper macro, arriviamo a qualcosa di non di più semplice, ma diciamo ripartiamo da dove avevamo iniziato. L'idea di questi incontri era quella di sviscerare o forse smascherare alcuni dei misteri che apparentemente si nascondono dietro sigle, acronimi, vocaboli, per capire un po' qual è la finalità di questo mondo apparentemente così lontano, così sofisticato, così difficile da analizzare. E mi viene in mente sempre Guzzanti quando, imitando il predicatore americano, diceva: è meglio che tu trovi il Signore prima che il Signore trova te. Ecco, parafrasando, è meglio che noi si trovi l'economia prima che l'economia trovi te, perché nella realtà dietro queste sigle, queste grandi istituzioni roboanti, poi nella realtà la finalità è sempre la stessa, e quindi è un'accumulazione, è il dominio sul mondo, e questo viene ottenuto attraverso tutti i sistemi possibili, nessuno escluso. Volevo portare, siccome come si dice, la realtà supera la fantasia, stanno succedendo delle cose che secondo me sono abbastanza esemplificative e esplicative rispetto a tutti gli incontri che noi abbiamo avuto. L'elezione di Trump. Trump, al di là del lato folcloristico che non ci interessa, è la rappresentazione precisa di qualcosa che ha delle origini, come abbiamo spiegato, diciamo alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando a un certo punto il grande nemico che era stato Roosevelt col New Deal aveva mostrato una strada possibile, una strada alternativa possibile. Quindi da una parte avevamo parlato di John Maynard Keynes, che era grande economista che in qualche modo, anche se non completamente, aveva influenzato Roosevelt nell'impostazione del New Deal, ma era un'economia, l'economia keynesiana è un'economia ancora dal volto umano, nel senso che Keynes si preoccupava che nel momento in cui la domanda di beni e servizi subisse un rallentamento, questo producesse poi una disoccupazione di massa con sofferenza relativamente alle maestranze che venivano licenziate. Quindi la sua teoria era lo Stato in quel momento deve, pur facendo debito, entrare per sostenere la domanda, per quindi, diciamo, rinsanguare il ciclo economico. E che, a mio modesto parere, ha un senso, e lo ha avuto non solo per me, ma per tantissime istituzioni, per tantissimi responsabili di banche centrali. Ma questo era, per quelli che allora si profilavano come i progenitori del neoliberalismo o neoliberismo, era una grossa minaccia, perché evidentemente teneva sullo stesso piano il capitale, il lavoro e la società. Quindi l'arricchimento sfrenato, la corsa all'efficienza a tutti i costi, costi quel che costi, sacrificando il mondo al di fuori del capitale, evidentemente trovava un grosso ostacolo in questo nuovo, in questo paradigma, un nuovo paradigma del, del New Deal. Quindi Trump rappresenta il terminale di uno sforzo organizzato, pianificato per cambiare le regole del gioco. Mi spiego, la faccio più semplice che posso. Il primo liberalismo era un liberalismo in cui lo Stato e la società, l'uomo politico e l'uomo o l'uomo economico, convivevano in qualche modo. Lo Stato cercava di supportare l'economia e però di, anche di circoscriverla per, dentro un ambito di responsabilità sociale. Quindi il famoso laissez-faire, quindi con uno Stato che lascia che l'economia faccia la sua strada, non interferisce, però in qualche modo il corpo di leggi e di consuetudini fanno da recinto a queste, alle manifestazioni di tipo economico. Quindi parliamo della scuola di Friburgo, che comincia a ragionare sul fatto che l'economia è molto importante e l'economia e la politica devono trovare un modus vivendi. Il neoliberismo, che è successivo, ribalta questo discorso e dice lo Stato deve lavorare in funzione dell'economia, tutto è economia. E poi ampliamo il discorso magari più tardi. Per cui col neoliberismo cambia l'ordine dei fattori, cioè le priorità sono diverse, le priorità non sono più quelle della società, di un tessuto sociale, di una convivenza, di una condivisione, diventa un mondo in cui i cittadini fra di loro non si scambiano, come diceva Adam Smith, ma entrano in concorrenza. Quindi ognuno dei partecipanti al contesto sociale diventa il concorrente del suo vicino. Entra qui il concetto di capitale umano, che avrete sentito ad nauseam. Capitale umano significa che non esistono più classi, chiunque possiede il proprio capitale e deve, investendo su se stesso, creare le premesse per essere impiegato, per avere successo, per interagire col mondo economico, nel mondo economico. Allora, tutto questo porta a che cosa? Alla progressiva distruzione dell'humus sociale, alla completa individualizzazione, trasforma i cittadini in sostanzialmente degli operatori economici, tutto dipendendo dall'economia e tutto avendo come scopo quello dell'arricchimento, dell'accumulazione, del ritorno sugli investimenti. Allora, cosa c'entra Trump con tutto questo? Questo fenomeno è stato aiutato, è stato supportato, è stato sponsorizzato da queste fondazioni di cui abbiamo parlato l'altra volta, che si formano intorno agli anni 50 e si sviluppano con grande potenza negli anni successivi al 68. Si rendono conto, questi industriali molto, molto potenti e molto facoltosi, che stanno correndo un rischio, come da una parte c'era stato il New Deal che rappresentava un rischio, così alla fine degli anni 60 tutto quello che è successo, quindi rivolte, i neri, rivolte nelle università, eccetera, creano un movimento fortissimo di reazione. Si rendono conto questi signori che i soldi vanno investiti in quello che loro chiameranno fabbrica delle idee, fabbriche di idee. E quindi mano a mano, attraverso borse di studio, pubblicazioni di libri, finanziamento di facoltà, finanziamento di professori, istituzioni e costituzioni addirittura di dipartimenti universitari, vanno a fare quest'opera di controintelligenza sostanzialmente per cambiare il senso comune. Se il senso comune prima era un senso di partecipazione di cittadini, di collaborazione, di convivenza, diventa, torniamo al discorso del capitale umano, ognuno per sé, Dio per tutti, tutti contro tutti. E quindi questo, diciamo, filone filosofico produce tutta una serie di documenti, di leggi e di territori di influenza in modo tale da arrivare fino a Trump. La tappa intermedia, l'abbiamo spiegato l'altra volta, è stato Reagan, il quale fondamentalmente ha ricevuto un libro bianco da queste fondazioni e si è attenuto circa per il 70% di quello che lui ha poi deciso in termini legislativi a quello che gli era stato. Questo libro bianco si chiamava Mandate for Leadership e la stessa cosa è capitata a Trump nel 2016 quando è stato eletto. Anche lui ha avuto, diciamo, questo avviamento, gli è stato praticamente assegnato un compito con delle istruzioni molto precise alle quali lui si è attenuto. Non solo, queste fondazioni, think tanks di cui abbiamo parlato, sono poi lavorano in osmosi col governo, per cui Trump quando è andato al potere cosa ha fatto? Praticamente il suo staff è stato costituito di persone che lavoravano in queste fondazioni e quindi i suoi esperti, gli esperti di diciamo per quanto concerneva l'attività del governo, l'attività legislativa e non solo, venivano da questi che in sostanza erano dei super esperti, ovviamente con uno scopo molto preciso, quindi non erano laici neutrali, sapevano cosa dovevano fare e questo è quello che è successo. Nel discorso di Trump è abbastanza interessante vedere, diciamo, faccio una piccola parentesi, voi sapete cosa sono i PAC? Non sono i piani d'accumulo delle assicurazioni o delle banche. Bravissima. I PAC sono Political Action Committee. I PAC hanno quindi sono, diciamo, degli organismi, degli strumenti per raccogliere fondi per le campagne elettorali. Seguono, hanno sempre avuto delle limitazioni di quantità, eccetera. No, di Political Action Committee. Comitato, sì. Comitato per raccogliere i soldi per le campagne elettorali. Allora, questi PAC fino al 2012 funzionavano in una maniera abbastanza ragionevole, cioè ognuno dei donatori non doveva superare una certa cifra, eccetera. Poi ecco che la Corte Suprema degli Stati Uniti, che è un organo fondamentale perché i giudici della Corte Suprema sono giudici a vita, quindi loro per renderli liberi di evidentemente legiferare senza la pressione di essere rieletti, di dover accontentare questo e quell'altro, nel 2012 stabiliscono che una corporation sia equivalente a un individuo. Quindi se l'individuo può dare il suo contributo alla campagna elettorale, così può fare la corporation. La corporation, quindi nascono i super PAC. Super PAC vuol dire che nel momento in cui una corporation vuole donare tot milioni di dollari, lo può fare, quindi senza limiti di ammontare, ma non lo può fare direttamente versando direttamente i fondi nel conto della campagna elettorale, ma può spenderli promuovendo idee, concetti, eccetera, che possono essere strumentali all'elezione di uno piuttosto che l'altro. Quindi con i super PAC, con l'approvazione di questo strumento, si apre un mondo, ed è non è un bel mondo, per cui torniamo a Musk. Musk praticamente, non dico che si è potuto comprare la presidenza degli Stati Uniti, però sicuramente il super PAC di Elon Musk è un super PAC che ha fatto la differenza. Quindi nel momento in cui lui ha fatto un investimento di questo genere, è andato a riscuotere, andrà a riscuotere i dividendi. La Costituzione è un discorso complicatissimo nel quale non entro perché finirei a 300 all'ora contro il muro. Nel momento in cui l'elezione dei giudici della Corte Suprema è un fatto delicatissimo e importantissimo per le ragioni. E quindi se pensate che oggi è una maggioranza conservatrice quella dei giudici e 5 su 6 dei giudici, diciamo di destra conservatori, fa parte di questa Federalist Society di cui abbiamo parlato la penultima volta, che è sempre comunque un'emanazione di questi think tanks. Quindi l'aggressione è da più parti. Fondamentalmente si cerca di cambiare le regole del gioco. Voi avrete sentito, allora, liberalismo, liberismo, neoliberismo, ha la parola libertà. La libertà, liberi mercati, libera concorrenza. Nella realtà, chi vuole arrivare a questo genere di potere, la cosa che aborre più di qualsiasi cosa è la libertà. Loro vogliono controllare dall'inizio alla fine tutto il processo. La meritocrazia inizia da me in giù, perché quello che io voglio è il controllo, come scrive il buon Marco Dermo, il dominio, perché il potere non è abbastanza. Tu puoi esercitare il potere, ma se eserciti il dominio, tu sei dominante e c'hai di fronte a te i dominati, no? Quindi questo ragionamento porta a... Noi possiamo vedere le cose in filigrana, essere super sofisticati, ma nella sostanza questo è un gioco brutalissimo, non primordiale, violento. Per cui io voglio tutto. Come diceva la canzone, quello che voglio è tutto. All I want is everything. E non mi basta meno di questo. Quindi siamo arrivati alla conclamazione di questa fusione assoluta e totale tra finanza, potere politico e dominio sul mondo. E qui è un libro che vi suggerisco, che mi hanno suggerito e che vi suggerisco, è questo libro di Alessandro Volpi che si chiama I padroni del mondo. Se abbiamo 5 minuti poi ci torniamo. Quindi la realtà supera la fantasia, Trump e Musk sembra quasi una tragedia shakespeariana. Cioè, ognuno ci può leggere qualsiasi cosa, però non è episodica, quello che voglio trasmettervi è questo non è un episodio, non è un accidente, è tutto diciamo collegabile in maniera molto chiara e molto efficiente a discorsi che sono partiti tanto tempo fa, che hanno creato progressivamente un terreno fertile perché questo potesse succedere. Quindi una delle prime cose che mi è venuta in mente, ho detto, ma noi di queste cose abbiamo parlato, però poi alla fine ha qualcosa... Un'altra cosa che è successa e che sta succedendo è la questione di Stellantis. Anche qui, niente di nuovo sotto il sole. Cioè, è perché noi conosciamo che il Can è il nipote di Agnelli, era quello, eccetera, eccetera. Per cui abbiamo un po' personalizzato la vicenda. Ma la vicenda è di una limpidezza concettuale assoluta. Noi abbiamo analizzato, e vale forse la pena di ritornarci, un capitalismo che si occupasse degli stakeholders e un capitalismo che si occupa solo degli shareholders. Mi spiego. Gli stakeholders sono tutti quelli che hanno, diciamo, qualche cosa in un'impresa. Gli stakeholder sono gli abitanti della zona in cui sono quelli che respirano l'aria che viene fuori dalle fabbriche, che sono quelli che prestano i servizi, sono gli operai che ci lavorano. Non un indotto di tipo industriale, un indotto di tipo sociale. Quindi gli stakeholder sono anche i fornitori, quindi è il mondo che viene coinvolto dall'impresa. Lo shareholder è l'azionista, punto, quello che detiene le azioni. Allora, E il Khan ha preso, non solo lui, ma gli azionisti con lui, hanno preso dividendi per 23 miliardi di euro. E nello stesso tempo, chiaramente, tutto il downsizing, la riduzione di personale, la chiusura degli stabilimenti, la cassa integrazione, per cui finalmente qualcuno ha detto, anzi si sono svegliati tutti dicendo, oh, ma cosa sta succedendo qua? Questo si porta via 23, questo e i suoi consoci si portano via 23 miliardi di euro e quegli altri vengono messi in mezzo a una strada. Abbiamo parlato anche di questo, non come Stellantis, ma con questo ragionamento che un'impresa, oggi come oggi, essendo la finanziarizzazione arrivata ai massimi livelli, un'impresa è una produttrice di dividendi o di cash flow o di tutte e due, ma non è più un'impresa nel senso di avere una missione, una strategia, una filosofia, un'utilità in senso allargato a livello sociale. Oggi l'impresa che produca bicchieri di plastica o bombe a mano ha un'unica finalità, che è quella di fare rendere il capitale investito il più possibile in qualsiasi modo possibile. Ricordatevi, se qualcuno c'era, vi avevo portato l'esempio di questa catena americana che fa cose per la casa sostanzialmente, quindi dalle salviette ai letti, all'accessoristica per il bagno piuttosto che l'arredamento, eccetera. Cosa è successo? Cosa semplicissima, cambiata la proprietà, hanno detto, bene, allora noi manager ci faremo remunerare sulla base della crescita degli utili per azione. Quindi, cosa facciamo? Allora, ci sono due strade. O investo e spero di avere ragione, quindi faccio crescere l'utile, oppure riduco il numero delle azioni. Per cui o aumento il numeratore o diminuisco il denominatore. Come si fa a far diminuire il denominatore? Diminuendo il numero di azioni. Come faccio a diminuire il numero di azioni? Mi faccio prestare dei soldi, io società, e compro le azioni che sono in borsa, sul mercato. Quindi io indebito l'azienda e porto a casa queste azioni che metto via. Quando a un certo punto davanti all'assemblea degli azionisti vado e ancora prima al Consiglio di Amministrazione vado a far vedere i miei numeri e dico guardate come sono bravo. Prima si guadagnava $1 per azione o €1 per azione, adesso si guadagnano $1.60. Per cui quello che viene in tasca a me è una percentuale, una moltiplicazione e via dicendo. Cosa è successo negli ultimi anni? Che stranamente per motivi più esogeni che endogeni i tassi di interesse, al posto che rimanere fermi come erano da più o meno 15 anni, sono saliti. Quindi servire il debito è diventato un grossissimo problema. Perché? Perché i soldi che mi ero fatto prestare dalle banche per comprare i miei titoli, dovevo aggiungerci dei soldi che non avevo più. E quindi la società porta i libri in tribunale. Stellantis. Il criterio è lo stesso, cioè dicono Tavares è un buon manager per gli shareholders, non per gli stakeholders, lui dell'impresa non gliene può fregare di meno, ha lanciato nuovi modelli, ha creato valore aggiunto, no, ha strizzato Marchionne style, ma anche molto di più, il limone fino in fondo. La società è una società decotta, non è più una società italiana. Ma non sono i soli, quello che voglio dire non è un caso regionale, è un caso universale. La Boeing che fa gli aerei era una società gestita da ingegneri, erano il fiore all'occhiello era trovare una sistemazione tecnologica a un problema, era avanzare in tecnologia, era trovare soluzioni. Gli ultimi 15 anni sono è cambiato il management e il management è diventato modello precedente. Quindi cosa hanno fatto? Hanno detto dobbiamo fare 10.000 ore di test sull'ala, cosa, ma facciamone 3.000. Lì c'erano 5 addetti per fare quella roba lì, prendiamone 3. Quella superficie là, al posto di farla di tot millimetri e di quel materiale, proviamo a farla in un altro modo. Morale della favola, la Boeing, che era un gioiello dal punto di vista tecnologico, è diventata una schifezza. E la gente non ci vuole più volare. Partono pezzi di fusoliera, si staccano le gondole dei motori, ne succedono di tutti i colori. Sono andati a vedere finalmente la commissione di controllo, la Federal Aviation Association, è andata a vedere e ha trovato l'American Aviation Federation, è andata a guardare e ha trovato uno schifo. Ha trovato che le procedure non erano state... Però cos'era successo nel frattempo? I manager hanno portato a casa e gli azionisti hanno portato a casa una quantità di soldi incredibile. L'ultima cosa di cui volevo parlarvi, diciamo venendo dalla cronaca a risalendo la corrente, è l'assassinio, come avrete visto, di questo Brian Thompson, che era l'amministratore delegato di questa società che tutti chiamano assicuratrice, ma non è un'assicurazione, è una healthcare, quindi è una società che si occupa di assistenza sanitaria. Allora, al di là delle, ancora una volta, di tutti i lati, diciamo, di tipo psicanalitico della persona che ha ucciso, ma anche qua è un altro argomento che abbiamo toccato, la privatizzazione della sanità negli Stati Uniti, che ormai è diventata un dato di fatto. Quindi, questo signore dell'American United Healthcare non aveva più colpa né più peccati di quelli che erano i suoi colleghi, però fondamentalmente quello che è successo è, anche se questo Luigi Mangione è un personaggio magari squilibrato in più di un modo, però c'è un ragionamento che uno può fare sul perché, nel senso che l'assistenza sanitaria negli Stati Uniti funziona in un modo molto particolare, per cui voi sapete che l'assistenza sanitaria cessa nel momento in cui tu sei disoccupato, quindi la tua polizza di assistenza sanitaria nel momento in cui tu sei disoccupato scade e quindi tu sei, esatto, esatto, sei da solo contro tutto. Dai 65 anni in poi invece l'assistenza è totale, ma anche questo settore, che è fondamentale, è diventato un grande polo di privatizzazioni. Quindi ci sono quelli tra RSA, tra centri di assistenza. L'America è diventata veramente il paradiso per chi ha investito in queste società. Sono andati a vedere, hanno fatto dei calcoli sul fatto che queste privatizzazioni, che avrebbero dovuto migliorare l'efficienza, ridurre i costi, nella realtà queste società private, il costo medio per assistito, per cure di un certo tipo, tutto omogeneo, eccetera, è il doppio rispetto a quello che chiamiamo il sistema sanitario nazionale. Sicuramente privatizzazioni portano in una direzione e quindi siamo ancora al discorso della distribuzione dei dividendi, strizzare il limone, eccetera, eccetera. Marco mi ha gentilmente mandato un articolo che è un articolo riepilogativo sul private equity, che è collegato a quello che abbiamo appena finito di dire. Qualcuno mi dà o ha una definizione di cos'è un private equity, di che cosa tratta? Dai, bravissimo quello lì. Allora, equity vuol dire azionariato, azioni, no? Private vuol dire che sono azioni non quotate, quindi non investono in società quotate in borsa. Questi strumenti, questi fondi di private equity investono in società non quotate, quindi sono private. Terzo mercato ad una volta. Ce n'è di... Sì, sì. Allora, qual è il concetto, se a qualcuno interessa, dietro il private equity? Il mondo delle società quotate in borsa è teoricamente un mercato perfetto, dove tutti sanno tutto quello che c'è da sapere. Quindi è un mercato iperefficiente, che poi sappiamo che non è così. Però le anomalie di interpretazione degli andamenti di azioni molto seguite, insomma, non sono così macroscopiche. Quello che si pensa invece succeda con le società non quotate, per cui le società quotate sono più piccole, sono più locali, sono più settorializzate, e quindi l'idea è: io vado a mettere le mani dentro una realtà che non è così visibile, in modo tale da essere in grado di capire come sfruttare il valore aggiunto che io vedo dentro in questa società. Quindi, no, non quotata significa che tu hai una società che produce scarpe e io vengo a trovarti e dico: buongiorno dottor Vidal, lei è interessato ad avere una partecipazione della sua società? E tu mi dici: ma no, io vado avanti da 50 anni a fare le migliori scarpe del mondo, non ho bisogno di nessuno. Però sa, guardi che noi abbiamo anche una società che fa stivali, esportiamo negli Stati Uniti, in Cina, in Giappone, eccetera. Se lei viene con noi, facciamo delle grandi cose. Allora, uno può dire di sì, può dire di no, ma fondamentalmente l'uomo di private equity ragiona in questo modo. Dice: io ho una società che fa stivali. Che cosa suona bene con una società che fa scarpe, una società che fa calze, una società che fa borse? E in gergo si chiamano add-on, quindi delle aggiunte a quello che è la società di cui mi occupo io. Quindi tu puoi essere visto come un add-on. Dal punto di vista della specificità della tua azienda, mi interesso e non mi interesso, ma sul fatto che tu possa creare sinergia con quello che io ho già. Quindi il private equity sostanzialmente fa questo lavoro qua, iniziato in un modo, finito in un altro. Quindi una volta chi si occupava di private equity, chi andava ad assumere? Ingegneri, tecnici, eccetera. Oggi questo ragionamento è completamente cambiato. Io oggi ho bisogno di buoni analisti di bilancio. Non che tu faccia bicchieri di plastica o bombe a mano, a me non interessa. Quindi io ti mando il mio team, il quale ti dice, e qui arriviamo, se vi ricordate bene, a tutta la spiegazione di benchmark, best practices, eccetera. Io ti mando i miei esperti, i quali ti dicono: guarda che tu, rispetto agli altri tuoi concorrenti, se questo è l'optimum, il benchmark, sei così o sei così. Per cui se tu mi segui, io ti faccio applicare le cosiddette best practices, quindi delle metodologie che sono provate e che vengono un po' da tutta la saggezza gestionale del mondo, in modo tale che tu raggiunga il benchmark e quindi crei valore per la tua società. Quindi, mentre una volta c'era un'unione di tipo industriale, tu fai i motori e io faccio le carrozzerie, o io faccio i pneumatici e tu fai i freni, e quindi c'erano realmente delle partnership di tipo sinergico a livello industriale, oggi questa roba qui non esiste più, o esiste in misura molto meno importante. Quindi il private equity, da quel punto di vista, ha subito esattamente questo snaturarsi di cui abbiamo parlato tante volte, come tutto il resto. Quindi i fondi vampiro, come sono in sostanza se vogliamo leggere e arrivare, chi ci guadagna veramente nei fondi di private equity? I gestori dei fondi di private equity. C'è un termine che in inglese si dice information ratio, quindi l'indice di informazione, che non dice nulla, è nella realtà quanto mi costa veramente lasciare i soldi in un veicolo piuttosto che in un altro. Veicolo finanziario. E arriviamo anche lì, perché poi arriviamo ai padroni del mondo. Il veicolo finanziario ha dei costi, si porta dietro dei costi. Sono dei costi palesi e dei costi non palesi. L'information ratio è quello che va a scovare anche i costi non palesi. Per cui uno dice, il mio costo dell'investimento con il fondo XY di Intesa San Paolo c'è 1% di commissione, eccetera, eccetera. Nella realtà tu vai a vedere, e dentro nella pancia di questo fondo, magari questi comprano e vendono azioni tutti i giorni. Quindi c'è un attrito che tu non vedi, ma che toglie valore all'investimento, perché se io continuo a comprare e vendere, ci sono delle commissioni di entrata ed uscita di compravendita, e quindi quello è un costo che va a comporre, contribuisce a formare l'information ratio. L'information ratio di un fondo normale può essere di quelli monetari, eccetera, intorno all'1,5. L'information ratio di un fondo di private equity supera il 7% di solito. Quindi, cui prodest? A chi ha messo in piedi questo veicolo e riesce a gestirlo per massimizzare il suo interesse? Quindi, siamo sempre nello stesso paradigma. Le fondazioni americane costano al fisco americano 50 miliardi all'anno, perché dentro le fondazioni c'è di tutto e di più. Le tasse non pagate rispetto alle donazioni che loro fanno sono meno 50 miliardi. Quindi, ancora una volta, stato minimo, meno stato, più mercato, un paio di ciufoli. E siamo sempre lì, ma non ci si muove. La Banca Mondiale, il servizio del debito ai paesi terzi, chiamiamoli così, in via di sviluppo, eccetera, stessa roba. Ne dai 200 e te ne tornano 300, tra interessi. Quindi, torniamo un po' a noi. In sostanza, quello che mi pare di capire, ed è molto triste, è che comunque tutti questi fenomeni sono riconducibili a un tentativo, purtroppo riuscito, di controllare parte e controparte, domanda e offerta, cioè di chiudere il famoso, altro che mercato libero, negoziazione libera, eccetera, è cercare di imprigionare tutte le variabili possibili dentro il mio recinto. Questo libro, Padroni del Mondo, ha un'eccellente descrizione di quello che sto cercando di raccontare. Lui si sofferma su tre protagonisti principali, non sono i soli, che sono fondi di cui, guarda un po', abbiamo parlato tempo addietro, che sono il fondo Vanguard, il fondo BlackRock e il fondo State Street. Cos'hanno di speciale? E secondo me questa è quasi una mutazione genetica. Allora, il fondo Vanguard ha circa 8 trilioni di dollari, diciamo, sotto la sua giurisdizione. Questo signore che ha fondato il fondo negli anni fine 60 si chiamava Bogle. E questo signor Bogle ha un'idea, dice, ma studi scientifici dicono che il valore aggiunto di quelli che pigliano l'azione tal dei tali e non l'azione tal dell'altra è zero. Hanno fatto proprio... Nessuno riesce a battere il mercato, per cui una volta ci riesce, una volta no. Quindi il 95% di chi gestisce i fondi non crea valore aggiunto. Allora lui dice, ma se questa è la realtà, io faccio un fondo indice, per cui se l'indice di riferimento è il Nasdaq o piuttosto che lo Standard & Poor's, io faccio un fondo che copia esattamente la composizione dell'indice. Vi faccio pagare una commissione che è una percentuale minima di quello che vi fanno pagare gli altri. Gli altri vi fanno pagare l'1,5% all'anno, io vi faccio pagare lo 0,20. Fantastico. Arrivano tutti i fondi del mondo e la semplifico. A un certo punto il signor Bogle si trova ad avere 8 trilioni di dollari e dice sì, ma io ho il 7% della Ford. Perché se seguo l'indice, se la Ford, la General Motors, piuttosto che la Apple, piuttosto che qualcun altro, è dentro nell'indice, se io devo copiare l'indice, devo comprare quei titoli e quindi mi trovo a essere un azionista molto importante. Allora, per un lungo periodo, il signor Bogle, questo era, diciamo, una conseguenza, la sua partecipazione. Poi un giorno si sveglia e dice, ma se io vado alle assemblee col 7%, sono probabilmente uno dei primi tre azionisti della società. Quindi forse è meglio, o forse è intelligente, più che meglio, che io eserciti un potere, questo potere che mi dà questa percentuale molto grande. E da lì non c'è stato più, è stata una strada in discesa, è diventato un effetto valanga. E quindi, seguito da BlackRock, State Street e non solo, questi signori hanno cominciato a diventare fondamentali nel gioco, perché hanno esercitato un potere che avevano accumulato nel tempo e che bene o male avevano lasciato inespresso in qualche modo. Storia brevissima, tornando a Elon Musk, tanto per dirvi come stanno le cose, a un certo punto gli azionisti dopo Elon Musk di Tesla sono Vanguard, BlackRock, State Street. Allora loro pompano questa azione, per chiaramente, quindi ne fanno da vendere e da spendere, per cui arriviamo al punto in cui Tesla, che produce 1 milione o produceva 1 milione di vetture, valeva 10 volte la Volkswagen, che produceva 10 milioni di vetture. Questo lo sappiamo tutti. Come si fa a tirare sul titolo un altro po'? Facciamo un bel annuncio. Hertz, grande società di affitto di rent-a-car, compra nei prossimi 5 anni 100.000 Tesla. Boom! Il titolo Tesla, boom! Poi si va a vedere chi possiede la Ford, le azioni della Ford. Vanguard, BlackRock, State Street. Me la canto, me la suono, me la registro e la riproduco a mio piacimento. Perché quindi, torniamo al ragionamento iniziale, qui di libero non c'è più niente. Qua nessuno vuole la libera concorrenza, vogliono tutti che tu paghi la libera concorrenza. Per cui il rischio, no? Famoso concetto di rischio, per cui l'imprenditore è quello che assume una certa dose di rischio e quindi viene remunerato in base alla giustezza delle sue idee, al coraggio che ha avuto, all'illuminazione, eccetera, eccetera. Questo forse è successo, ma tempo addietro. Oggi il vero rischio sta a valle, non sta a monte. Nel momento in cui le mie cose vanno male, io licenzio, scompaio, strizzo il limone, porto via i dividendi. Amazon come fa? Amazon ha una società in Lussemburgo che ha titolo per poter rappresentare il brand Amazon. Ha una società che poi usa questo brand per fare tutte le società operative, ma deve pagare una royalty. Una volta che questa società paga la royalty alla società in Lussemburgo, la società pagante dichiara praticamente zero, perché i suoi conti arrivano al punto di nettare, di avere una somma zero rispetto alle royalties che deve pagare alla casa madre. La casa madre in Lussemburgo spedisce i soldi, immaginiamo anche dove, da qualche parte dove fiscalmente chiaramente convenga. Quindi questo ragionamento per dire che cosa? Che tutto questo linguaggio con la parola libertà in qualche modo implicita è una mistificazione enorme, perché di libero veramente, se passiamo dal micro al macro, a livello macro, non c'è nulla, non c'è più nulla. Fu scritto un libro qualche anno fa che si chiamava Skin in the Game, che tradotto vuol dire pelle nel gioco, cioè avere, rimetterci in proprio, rimetterci del proprio. E nella realtà, questo che ha scritto il libro, che è una persona molto, molto intelligente, diceva: tutti vogliono privatizzare gli utili e rendere pubbliche le perdite. Discorso delle banche, 2008, l'abbiamo affrontato, 2008 cosa succede negli Stati Uniti? Quando salta tutto, per usare una terminologia sofisticata a livello politico, il denaro privato, quello degli acquisti, quello vero, è servito a pagare i debiti fatti col denaro fiduciario, col denaro di credito, come diceva, fittizio, capitale fittizio. Quindi quando a un certo momento vogliamo essere liberi dallo Stato, no? Stato minimo, più Stato, meno Stato, più mercato, è una sloganistica di tipo strumentale, perché poi nella realtà lo Stato serve a tirarti fuori dai guai. Quindi 2007-2008, crisi dei mutui subprime, eccetera. Il Covid nel 2020, senza lo Stato, dove andava questa gente qua? Cosa avrebbero fatto di così straordinario? Corro dalla mamma però nel momento in cui. Quindi il gioco che abbiamo cercato di ragionare un po' sul dietro le quinte per vedere quanto nudo fosse il re in queste puntate che hanno preceduto questa, e credo che oggi come oggi quello che abbiamo davanti ce lo racconta in modo molto esplicito. E ancora una volta quello voi avrete sicuramente molta più dimestichezza con Gramsci di quanto possa averne io. Ma quando Gramsci parlava di egemonia, di senso comune, diceva: il senso comune va difeso e costruito ogni giorno, perché nel momento in cui il senso comune viene alterato, viene mistificato, viene rindirizzato, poi i danni sono giganteschi. Quello che questo mondo macro, micro ha fatto in tutti questi anni è quello proprio di alterare il senso comune. Quindi questa storia del capitale umano che ci fa sentire in colpa se noi non siamo adeguati, se non siamo efficienti, se non siamo super performanti e quindi che non abbiamo fatto le scelte giuste, non abbiamo fatto i sacrifici giusti, è un ragionamento che ha cambiato, ha alterato la percezione del senso comune. Oggi noi ci sentiamo in colpa per delle cose che fino all'altro giorno avrebbero fatto parte della nostra vita normale. Noi non siamo delle macchine, ma ci hanno forse detto, ci hanno forse fatto capire che da qualche parte questo benchmark, questa assoluta perfezione esiste e che noi siamo in qualche modo responsabili della nostra inadeguatezza. In parte lo siamo, ma non è il termine di paragone, lo decidiamo noi. Non c'è qualcuno che deve venirci a dire che nella scala da 1 a 1000 tu sei. E quindi torno a dire, anche noi abbiamo parlato della lingua, no? La governance. Questa storia della governance anche gli asili hanno una governance, anche le maestre di prima elementare devono avere una governance, perché è un termine che è talmente fluido e flessibile che ha praticamente assorbito come blob tutto quello che una volta era tutt'altro. Quindi governance, benchmark, best practices, ci hanno creato una specie di labirinto da cui noi non riusciamo a uscire. È una specie di proceduralizzazione del buonsenso. Cioè il buonsenso diventa una serie di norme e si evitano i conflitti, si evitano i contrasti, si evitano le contrapposizioni, è tutto molto mieloso perché così fan tutti, perché così qualcuno ha stabilito che, perché è meglio se a un certo punto non facciamo troppo contrasto perché è improduttivo, crea attrito, eccetera. E ci troviamo in una specie di palude nella... Ma alla fine tutto questo non riesce, perché tu continui a buttare la polvere sotto il tappeto fino a quando il tappeto è alto un metro e mezzo e da qualche parte il primo che starnuta moriamo tutti di... Madonna, è un'ora che parlo. Sì. Ma... Ci sono state delle variazioni. Se vuoi, perché siccome noi stiamo facendo anche... No, mamma mia. Siccome facciamo la ripresa in radio, e allora se uno non parla nel microfono non si sente. Quindi se qualcuno vuole chiedere qualcosa può venire qua, non ci sono problemi. Vieni. A favore di camera. Ma dai, non parli di parolacce. Sto leggendo il libro di Emmanuel Todd, La sconfitta dell'Occidente. E c'è una cosa che mi ha colpito molto, e cioè la base per quello che noi chiamavamo la base fondamentale della società capitalista dove siamo cresciuti era la produzione. Avanzando i sistemi di produzione, eccetera, eccetera, maggiori specializzazioni in questo campo diventavano molto utili. Lui rileva che negli ultimi 20 anni, scompaiono le specializzazioni ingegneristica, cioè tutto ciò che serve alla produzione, e aumentano notevolmente economia e commercio, pubbliche relazioni, marketing. E questo lui dice se è il segno del fallimento dell'idea occidentale di sviluppo. È l'allontanamento dalla realtà, no? Non so. Nel momento, libro di cui abbiamo parlato, no? Il capitalismo della sorveglianza, quindi la produzione di big data, l'estrazione del surplus comportamentale, come lo chiama l'autore, fondamentalmente dice non esistono più gli operai, la produzione, eccetera. Siamo tutti produttori, perché i dati dei consumi, dei comportamenti, eccetera, li forniamo tutti gratuitamente, no? Quindi lo spazio non è più importante, perché nessuno più passa tempo dentro in uno spazio preciso, siamo in giro tutto il giorno. Il tempo non è che tu lavori dalle 8 alle 16, lavori tutto il giorno, perché sei libero, no? Con lo smartphone, con il laptop, con quello che vuoi tu sei operativo 24 ore al giorno. Per cui, in più, qui abbiamo un ingegnere, dal mio punto di vista, ormai i processi produttivi per beni di consumo direi che sono abbastanza acquisiti, no? Direi che sta diventando tutto quasi commodity. Allora, lascia stare evidentemente cose super sofisticate, ma fondamentalmente sta diventando tutto come produrre lavatrici, nel senso che quello che c'era da inventarsi, adesso, assemblaggio. assemblaggio, ottimizzazione, razionalizzazione in tutti i modi possibili e immaginabili, ma non è rimasto più grande valore aggiunto, no? Quindi ormai, come si vede, le produzioni continuano a essere delocalizzate, poi delocalizzate, poi delocalizzate, perché nella realtà sono molto povere di contenuti sia tecnologici che poi di innovativi. Quindi adesso l'Occidente evidentemente fa un'opera di... Cioè è anche uscito un libro di Odi Freddi, cosa c'è di... c'è qualcosa di marcio nell'Occidente, e adesso c'è questo senso di autopunizione dell'Occidente che ha buone ragioni magari di farlo, ma nella sostanza si pensa, quando si parla di Occidente si parla col modello anglosassone americano, per cui non esiste l'Occidente senza quel modello lì. Quello che credo che vada rivendicato è che esiste, soprattutto per noi che veniamo da una cultura così antica, un modello diverso, che è fondamentalmente quello di cui parlavamo prima, cioè un modello basato su anche valori di tipo qualitativo. Io mi ricordo quando vivevo e studiavo negli Stati Uniti, il mio più caro amico americano, che mi ha spiegato l'America in lungo e largo e si è fatto due palle incredibili perché gli stavo addosso tutto il giorno, mi disse: il vero problema di noi americani è che noi non riusciamo a dare un valore alla qualità. Noi, se riusciamo a contare le cose, a pesare le cose, a misurare le cose, siamo bravissimi, ma se dobbiamo andare a attribuire un valore all'intangibile, siamo persi. E un mio professore mi disse, nel momento, questa forse l'avete già sentita, nel momento in cui Leonardo da Vinci si rincarnasse qui negli Stati Uniti, partirebbe la più grande caccia all'uomo mai vista, perché un uomo a pluridimensione è il nemico giurato di tutto quello di cui abbiamo parlato, no? Qui abbiamo bisogno di un uomo che sia come una freccia, che quindi sia mirato, sia veloce, sia efficiente, quindi ne abbiamo parlato tempo fa, ormai l'efficienza, al posto che essere un mezzo, è diventato un fine. Cosa fai per essere... Ma la tua efficienza cosa ti serve? Non importa, no? È come gli scienziati che dicono: si può fare, lo facciamo, poi il mondo crolla, si distrugge, eccetera. Ma ormai siamo così, ma loro sono così. Quello che io penso è che noi possiamo non essere così, anzi non lo siamo. Non lo siamo. Certo che tutti quelli che noi pensavamo essere valori oggi sono assolutamente non più popolari, non più accettabili. Ma è tutta una perdita di tempo. Quando, ormai sono come i reduci, ma racconto le storie, ma quando studiavo negli Stati Uniti c'erano i corsi hard e i corsi soft. Allora, bisognava fare bene i corsi hard, perché erano quelli numerici. I corsi soft, che era come capire il prossimo, come vivere dentro un'organizzazione, erano sputazzati, perché erano... Ma no, era roba da sissis, no? Era roba un po' così, non da uomini veri. Nella realtà, loro avrebbero dovuto, gli americani, fare 90% di corsi soft, perché avevano la testa talmente hard che forse l'avrebbero resa un po' più rotonda, però il machismo imperante era cosa... Io non mi posso far vedere a essere particolarmente partecipativo in un corso soft, che figura da checca faccio, capito? E questo, visto, rivisto, rivissuto, ha portato a questa roba qui, ma noi non siamo così. Cioè il nostro possibile modello non esistenziale è un modello molto, molto diverso, molto più ricco, molto più composito, molto più contraddittorio, molto più tutto. E quindi essere schiacciati, ridotti da una sottocultura, lasciatemelo dire, che domina, perché se evidentemente ormai è tutto solo fare, e quindi nel fare arrivano loro che sanno fare meglio, di più e soprattutto di più, E noi abbiamo il complesso di inferiorità e ci deve piacere l'hamburger con le patatine e la Coca-Cola. No, no, io sto parlando dell'Occidente non anglosassone. Ah, ok, quindi cinesi, russi... No, quello non è Occidente. No, ho capito, ma l'Occidente è questo che ha tutti questi problemi, e gli altri invece hanno una dimensione... Loro no, no, no, per carità, non mi ci metto, però... No, ecco, per capire... No, no, no, quello che io sto dicendo è modello asiatico... Lo lasciamo. Un'altra storia. È un'altra storia. Si potrà affrontare, però diventa tutta un'altra puntata. No, no, no. Io quello che voglio dire è che noi ci sentiamo in colpa perché assimiliamo il nostro modello occidentale al modello anglosassone. E che secondo me sono due cose diverse. E diciamo che promuovo la rivendicazione di questa differenza. Sì, sì, sì. Eh sì, poi volevo farti una considerazione su quel passaggio che hai segnalato di Todd. Ne dico un'altra. Sempre Todd, lui crede che le linee di fondo della nostra società e della crisi attuale stiano in parte anche nelle religioni che vengono praticate nel nostro mondo. I temi che tu sollevavi adesso, che hai sollevato tutta questa sera, sono il calvinismo. Io ho studiato Calvino, non so per quale, cioè un giorno te lo spiego perché ho dovuto studiare Calvino, ma è il calvinismo nelle sue semplici fondamenti, è calvinismo. Max qua. Weber. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì, sì. Proprio negli scritti di Calvino si legge proprio tu devi essere tu che fai le cose, devi fare fino in fondo rischiando di te contro tutti, contro allora, tutto. Allora finché era il mondo delle relazioni interpersonali era comprensibile, cioè più comprensibile nel mondo trasportato nel mondo dei fantasmi del denaro diventa incomprensibile. No, ma allora tutti questi mondi che partono come se al nastri di partenza fossimo tutti alti 1,80 m, pesassimo 80 kg, avessimo avuto la stessa tipo di formazione, eccetera, eccetera, è un presupposto che non esiste. Se vi ricordate Novelli che è stato ostracizzato, eccetera, eccetera, perché lui scrive un libro sul debito, no? Pubblicato a 24 ore. E qual è la cosa che lui dice? Tutti i sistemi macroeconomici, tutte le teorie macroeconomiche, non servono a nulla se non tengono conto che noi non partiamo da tabula rasa, ma partiamo da un debito, come diceva Marco prima, monumentale, che è un debito, qualcuno ha scritto, il capitalismo si pensa immortale. E pensandosi immortale, il debito non è un problema, perché vivendo per sempre questo debito in qualche modo verrà pagato, fra 1500 anni, come dice la moneta lì, 2500. No, ma quindi sono le condizioni di partenza, sono i ceteris non paribus, perché tutte queste robe qua, di il merito... E la benevolenza di Dio, eccetera, partono dal presupposto che siamo tutti perfettamente allineati con la stessa dotazione cromosomica, intellettiva, sociale, etnica e via dicendo. Non è così, non è così, perché la teoria del capitale umano di questo Gary Weber, che ha vinto il premio Nobel, è uno dei para Chicago Boys e cose del genere, ma l'eugenetica gli fa il solletico, cioè questo ipotizza assieme ai suoi amici un mercato dei bambini, perché è molto più efficiente un mercato di domanda e offerta piuttosto che lasciarli in un orfanotrofio a decidere in 2 anni a chi devono essere assegnati. Quindi, ancora una volta, il migrante, secondo il signor Weber, è un portatore di capitale umano, sta cercando di fare un investimento su se stesso, muovendosi da un posto dove muore di fame o gli sparano o lo imprigionano, per riuscire a diventare efficiente dal punto di vista economico nella prossima destinazione. Allora, se stiamo a parlare, allora, se Keynes dice la disoccupazione produce morti, per cui lo Stato deve intervenire, non è che l'ha detto Mao Zedong o l'ha detto Lenin, l'ha detto Keynes. Noi ci stiamo ancora a trastullare con delle teorie che partono dal fatto che siamo tutti uguali da tutti questi punti di vista. È troppo comodo, è troppo comodo. La storia ha già fatto il suo corso. Cioè, c'è un cavolo da fare. Non partiamo da zero. Per cui, se vogliamo illuderci, se vogliamo raccontarci delle storie, liberi tutti, possiamo scrivere un milione di libri, ma c'è qualcuno che ha detto che anche tutte queste pagine di grafici, cioè il tentativo di scientificizzare, siamo partiti da lì, tentativo di scientificizzare l'economia, no? Bellissimo. Ma c'è qualcuno dentro il sistema che ha detto, ma più tabelle, più grafici, più curve, dice, sono strumenti di marketing, perché i concetti non avrebbero quelli forti. Infatti si chiamano anche torte, no? No, bravo. Bravo. No? Si chiamano anche torte. È una torta sia in un senso che nell'altro. Però è veramente un ragionamento. Noi siamo partiti proprio, forse i primi 10 minuti, parlando di circonvenzione di incapace. Alla fine è un grandissimo gioco che ha questo scopo in testa, è creare nell'inclita, nelle persone, nei non addetti ai lavori, un senso che, come diceva Margaret Thatcher, non c'è alternativa. O è così o è così. Tant'è vero che uno degli acronimi era TINA, there is no alternative. E alla fine uno dice, cavolo, lo dice quello, lo dice quell'altro. Allora sono l'unico pirla che non ha capito e quindi mi adeguo, no? No, ma certo, ma è la pressione esercitata dai vari maître à penser che è fortissima, perché ti fa sentire inadeguato, ti fa sentire, ah, cavolo, io questa roba che non riesco a capirla, allora deve essere, quello lì è bravissimo. Quello è un discorso di tecnica, non è un discorso di finalità, di filosofia, di strategia, di visione, è un discorso di tecnica. Allora, o soggiacciamo, la tecnica si compra, la tecnica non deve dominare, la tecnica è uno strumento che si può acquisire, ma deve avere una finalità, deve esserci qualcuno che decide questa tecnica cosa serve, che male fa o che bene fa. Oggi siamo nel campo in cui la tecnica è, o tecnologia, o declinatela come volete, è lei che decide. Non deve essere così, anche se sembra che sia inevitabile sta roba qua, no? Ineludibile, il mondo va così, è sempre andato così. No, almeno nella nostra testa, nel nostro sentimento, questa cosa qui non deve passare. Anche se ci sentiamo ignoranti, inadeguati, eccetera, in quello sposo Grillo, ogni tanto un vaffanculo, secondo me, è doveroso. No, volevo solo, sul passaggio che aveva fatto Flavio rispetto a Todd, che segnalava, c'era questa osservazione della mancanza di ingegneri, l'economia e commercio, marketing, comunicazione, eccetera, eccetera, no? Allora, attenzione, perché sotto certi aspetti la situazione, in termini generali, si presenta molto più semplicemente per essere vista, ed è quando questa mancanza che lui segnala si tratterebbe di una mancanza dell'involucro, perché il contenuto, che è quella sede dove veramente si concretizzano e realizzano le cose, insomma, in poche parole, gli impianti della fabbrica, è ultra sufficiente, anzi è normalmente su tutto il globo terracqueo, come direbbe qualcuno di recente convocazione, sono ultra, cioè gli impianti sono a disposizione per creare produzione in termini così esuberanti che non vengono utilizzati. E quindi questo involucro che Toll segnala essere come mancanza non corrisponde più al contenuto, questa è la vera questione. E quindi che me ne faccio di una grande comunicazione se poi non vendo comunque la scatola degli spaghetti? L'ultima osservazione, poi lascio la parola a lui, è per tornare a quella faccenda. E faccio l'esempio nostro, qui, no? Fino a poco tempo fa, tutti noi, salvo peccatori automobilisti, utilizzavano e utilizzano i mezzi della TM qua a Milano, e fino a un certo punto noi eravamo degli utenti, vi ricordate? Esatto, noi siamo diventati clienti. Questa è una grandissima, doppia mistificazione, per due motivi. Non entrerò sulla qualità del servizio in rapporto a ieri rispetto ad oggi, lasciamo stare, ma io cliente posso essere un cliente dell'Esselunga, perché se non mi va bene vado al PAM, ma con la TM io non è che posso andare, non è che la 90-91 c'è un altro che di là fa l'89 e io la posso prendere, no? Basta. Vai. Volevo ritornare un po' sulla questione che è stata detta dei private equity, che c'è un articolo di Michael Roberts, se non sbaglio. Allora, come fanno questi privati a attirare, diciamo, investimenti, fondi, promettendo semplicemente un rendimento maggiore rispetto a quello che sarebbe il mercato azionario normale? E quindi quelli che poi mettono i fondi sono comunque sempre fondi pensione, eccetera, eccetera, no? Ora, a parte che poi questa promessa di dare un investimento, un rendimento maggiore a quelli che mettono i fondi, non viene poi mantenuta poi alla fine, ci sono vari escamotage per fare questo, ma per sfuggire a questa cosa. Ma non solo, cosa fanno questi poi con questi fondi, questi private equity? C'è un esempio qui che viene riportato, una società private che si chiama Carlyle Group acquista, prendendo anche a prestito dalle banche, una società che lavora nella sanità, si chiama Manor Care, si chiamava, che aveva 25.000 posti letto ed era la seconda catena di case di cura degli Stati Uniti. La prima cosa che fanno è vendere il terreno su cui sorgeva questa casa di cura. Quindi a un certo punto questa società, Manor Care, doveva pagare l'affitto. I suoi profitti naturalmente calano vertiginosamente. Quindi cominciano a licenziare, a tagliare manodopera, abbassare salari, qualità dell'assistenza che va, diciamo, sempre peggio, spirale discendente. Molti gli fanno causa, gli Stati Uniti fanno causa per avere... Quindi questa società fallisce, però i debiti non sono della private equity, sono di questa società. Manor Care, quindi a loro non gli interessa. Mi sembra quasi che c'è un certo, mi viene in mente quello che succede alla GKN da noi, cioè che era una società che andava bene, il fondo Melrose inglese lo compra e lo fa fallire, non si sa perché. Cioè, quindi diciamo, e questo è il modo di agire che va diciamo a tutto scapito degli investimenti produttivi. A parte adesso sembra però che con gli aumenti dei tassi di interesse le cose si mettono un po' male anche per loro. Comunque i debiti alla fine vanno sempre pagati, come insegna la crisi del 2007-2008, dove si crea uno squilibrio fra il debito e il reddito, cosa che è successa a quelli che avevano fatto i mutui per comprare le case e poi non avevano il reddito sufficiente, lì c'è il crollo. La crisi, le crisi capitalistiche adesso sono così, sono crisi del debito, non sono più le crisi cicliche, classiche del capitalismo per il saggio di produzione, tutto quello che abbiamo studiato, no? Quindi dobbiamo adeguarci a quella che è la situazione attuale, alle prossime crisi, fra l'altro. Ritorniamo un secondo poi al titolo, no? Dice eppur camminano, e se al posto di esaminare il cadavere A avessimo esaminato il cadavere B, e che quindi ogni volta il capitalismo si incorpora in qualcosa e poi da qualche parte rinasce sotto un'altra forma. Ma secondo me anche il termine capitalismo non ha più senso di esistere, perché il capitalismo è uno strumento, lo è sempre forse stato, ma oggi a livello planetario, del potere. E quindi il discorso di Musk, qualcuno ha scritto: Musk non ha fondato Tesla, ma l'ha comprata, non ha fondato SpaceX, ma l'ha comprata, non ha fondato Twitter, ma l'ha comprata, non è diventato presidente degli Stati Uniti, ma se l'è comprato, no? Ecco, io credo che perché fermarmi all'economia se posso comprare il mondo? A un certo punto ho tutti e due gli estremi, perché sono parte e controparte, negozio con me, tra me e me, e quindi poi giustamente diceva lei, alla fine che cosa ti rimane di tutto questo? Più soldi, più immagine, più risonanza, più visibilità. Ma fondamentalmente rimani lo stronzo che sei, perché e muori in una buca da solo, e cioè, sembra veramente, Marx diceva, no, come sappiamo tutti, che la storia prima si presenta come dramma e poi torna come farsa. Penso che più farsa di questa difficile immaginarla, una cosa del genere. Comunque, chiudo con un aneddoto personale. Il mondo del private equity, quando ancora, forse era un'altra cosa, sono andato a una conferenza a Londra, e tantissimi anni fa, e a un certo punto vado alla presentazione di questa società, c'erano varie società che presentavano, c'era questa società che si chiamava, e si chiama tuttora, KKR, ed è menzionata nell'articolo. Morale, vado e sento la presentazione, poi la sera c'è la possibilità di scegliere con chi andare a cena. Eravamo in 6 alla presentazione, alla cena con questo signore siamo in 4. Questo signore era uno delle 2 K, il signor Robert Kravis, col quale ho passato una serata praticamente in tête à tête, perché tutti si facevano i cavoli loro, io solito nerd, davanti a questo qua l'ho spolpato vivo. A parte un uomo di un'intelligenza incredibile, lui mi aveva raccontato, loro stavano arrivando per la prima volta nel mondo extra Stati Uniti, e sentire l'energia che aveva sta persona, lui aveva già fatto degli spezzatini clamorosi, preso società smembrate, cose. Però lui era ancora uno di quelli che credeva di poter produrre valore aggiunto. Cioè, lui capiva che le società grandi erano inefficienti, che quindi si erano sedute su se stesse, che non avevano più dinamismo, eccetera, eccetera, e che lui metteva tutti sul chi va là. Per cui sono passati tanti anni, sono passati 40 anni e il signor Robert Crevis è ancora lì che fa quello che vuole. La Meloni, qual è uno degli interlocutori della Meloni per il discorso privatizzazioni eventuali, eccetera, eccetera? BlackRock. Sì, potremmo magari parlare. Cioè, no, sì, voglio dire, Larry Fink, non lo so, non credo che abbia proprio una terzietà clamorosa nel momento in cui suggerisce alla Meloni di fare una cosa piuttosto che l'altra, ecco, diciamolo. Grazie mille. Grazie. Dai.